GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Piogge torrenziali, alberi caduti, una settantina gli interventi per il maltempo di questa notte, in particolare nella destra Tagliamento, al confine con il Veneto, dove è esondato il fiume Meschio, allagate una ventina di abitazioni, e tra Udine e Gemona. A Tricesimo soccorso un automobilista bloccato in un sottopasso allagato. Dopo 32 anni di attività si apre una nuova era per il sincrotrone. Inizia l'installazione di Elettra 2.0. La nuova infrastruttura, basata su un anello di accumulazione di quarta generazione, garantirà prestazioni significativamente superiori. L'avvio nel 2026. Record di transiti l'anno scorso sulla A4, con prospettive di crescita anche per il 2025. Di questo traffico il 30% è rappresentato da veicoli commerciali, la percentuale più alta in tutta Italia. Necessario il completamento della terza corsia, è stato ribadito da Autostrade Alto Adriatico. Entro il prossimo anno il completamento dei lavori di restauro di Villa Sevastopulo a Trieste. Il castelletto, costruito nel 1862, si trova all'interno del campus universitario. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Daniele Letti, Gedi Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. La nuova ondata di maltempo ha colpito in particolare il Friuli e la destra Tagliamento, dove stanotte è esondato il fiume Meschio a Fratta di Caneva, al confine con il Veneto. Danni da allagamenti, vento ed esondazioni anche a Magnano in Riviera, Caneva, Artegna, Ragogna, Reana del Royale, Monfalcone, Buia, Tavagnacco, Cassacco, Tricesimo, Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Treppo Grande e Tarcento. A Tricesimo, in via Monte San Simeone, soccorso un automobilista che era rimasto bloccato con la sua macchina semisommersa in un sottopasso. A liberarlo, utilizzando un verricello elettrico, i vigili del fuoco. Mi è venuta su, perché la grava praticamente non riceveva più, è venuta su l'acqua che veniva su alta così. Ho tamponato con stracci, ok, perché fra la pompa che ho giù, sono riuscita questa volta a salvare qualcosa, però sono cose... bisogna provarle per credere. Ieri sera il Meschio è uscito dagli argini a Caneva con allagamenti in una ventina di abitazioni a Fratta, un'altra piena, più intensa e rapida della sera precedente, 2,70 metri in tre quarti d'ora. A Cordignano il fiume ha completamente invaso la piazza centrale. In mattinata al sopralluogo dell'assessore regionale Riccardi con la Protezione Civile si lavora a soluzioni congiunte con il Veneto. L'assessore regionale Riccardo Riccardi. Ho appena sentito il prefetto di Pordenone, adesso io gli manderò gli estremi e sarà sua cura, mi ha assicurato questo, lo voglio anche ringraziare, coinvolgerà il prefetto di Treviso e tutti i soggetti che in qualche modo dovranno fare un'analisi puntuale di quello che è accaduto. Cerchiamo di migliorare le condizioni, gli investimenti aiutano, continueremo ad andare in questa direzione. Dino Salatin, sindaco di Caneva. La situazione adesso è sotto controllo, qualche casa ha avuto qualche piccolo allagamento, ma nella sfortuna tutto sommato è andata anche abbastanza bene. È chiaro che non possiamo ogni volta vivere con la paura di dover andare sotto acqua. Le piogge sono state molto intense anche in provincia di Udine, duramente colpite le zone di Tarcento, Ragogna, Gemona, Buia, Magnano e Riviera. Qui con punte di 90 mm in un'ora si sono allagate due case di riposo. A Reana del Royale un sottopasso è finito sott'acqua, mentre ad Artegna si è rotto l'argine del torrente Clama. A Tricesimo un autista rimasto bloccato in un sottopasso allagato è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vediamo dunque il tempo sulla regione. Cielo da nuvoloso a coperto. Queste le temperature delle 11. A Trieste 19 gradi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi. A Gorizia 20 gradi, a Udine Pordenone 17, a Tolmezzo 14, a Forni di Sopra 12, a Tarvisio e Sappada 11, a Piancavallo 11,5. Sul Monte Zoncolan 7 gradi, sul Monte Lussari 4. Sulla costa a Grado 20 gradi con temperatura del mare di 22, a Lignano 18 gradi con temperatura del mare di 26. Le previsioni dell'ARPA regionale: dopo un temporaneo miglioramento nel corso del pomeriggio il tempo tornerà instabile con piogge e qualche temporale che, partendo dalle prealpi, si sposterà verso sera anche su pianura e costa. Temperatura sotto la norma, sulle vette più alte attorno ai 2500 metri circa possibile anche la neve. Domani bel tempo con atmosfera fresca e secca. Sarà attiva dalla prossima primavera e sostituirà la storica Elettra, spenta pochi giorni fa dopo 32 anni di esperimenti, la nuova macchina di luce del sincrotrone Elettra 2.0. Una struttura basata su un anello di accumulazione di quarta generazione che fornirà fasci di luce fino a 1000 volte più brillanti. La presentazione ufficiale poco fa. Una nuova infrastruttura per la ricerca del futuro e l'inizio di una nuova era per il sincrotrone. È iniziata ufficialmente l'installazione di Elettra 2.0, la nuova macchina di luce con la quale i ricercatori potranno osservare la struttura della materia ancora più da vicino. Grazie a una luce molto più brillante e coerente potremo osservare i materiali nella loro struttura più intima, sviluppare tecniche avanzate. Misure che prima richiedevano ore potranno ora essere completate in pochi minuti, con un livello di dettaglio e di precisione molto maggiori. Queste le parole del presidente e AD di Elettra Sincrotrone, il professor Alfonso Franciosi. La macchina 2.0 sostituisce la precedente dismessa pochi giorni fa. La prima Elettra ha operato per 32 anni e ha contribuito a quasi 12.000 esperimenti. A differenza della prima versione, la nuova macchina di luce basata su un anello di accumulazione di quarta generazione garantirà prestazioni superiori. La nuova sorgente fornirà fotoni più stabili e fasci di luce 1000 volte più intensi. Costo della nuova infrastruttura 200 milioni di euro, risponderà alle emergenti esigenze della ricerca. L'avvio della nuova macchina di luce è previsto nel 2026, i primi utenti esterni sono attesi a partire dall'inizio del 2027. Trieste, Andrea Marucic, GR, Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci a Udine, dove oggi è stata convocata in regione l'audizione con i rappresentanti del terziario, per i sindacati un settore in cui persiste un lavoro povero e precario. Una presentazione, sì, ma anche un confronto vero, quello tra l'assessore regionale Bini, i sindacati dei lavoratori e le associazioni di consumatori. Convocati in regione dopo l'incontro con le categorie economiche del terziario, ovvero i datori di lavoro, per l'illustrazione del disegno di legge regionale che disciplinerà dal 2026 i settori del commercio e del turismo. 6 pilastri su cui poggia: semplificazione, mappatura dell'esistente, valorizzazione del commercio di prossimità, turismo lento, marketing unitario per i consorzi turistici e revisione della classificazione alberghiera. Ne manca uno di pilastro, però, hanno obiettato i partecipanti, quello sull'occupazione di qualità per un settore troppo spesso di transito. Daniela Duz, segretaria regionale della CGIL. In questo settore esiste lavoro povero e precario, in questi settori lavorano le donne e i giovani. Se noi non diamo qualità al lavoro, non fidelizziamo il personale, non raggiungiamo la qualità dei servizi erogati. Cristiano Pizzo, segretario regionale della CISL. In questa regione, come avviene purtroppo anche in altre regioni, ci sono delle intromissioni di chi cerca di spacciare per buoni contratti dei contratti che vanno a far risparmiare soldi alle imprese andando a penalizzare i lavoratori, e noi questa cosa non lo possiamo assolutamente permettere. Andrea Sappa della Wiltux FVG. Se la regione decide giustamente di dare una serie di contributi ad aziende che fanno questo tipo di investimenti, assoggettare anche la corresponsione di questi contributi anche ad una verifica, di un controllo di come vengono gestiti gli appalti. Il testo unico sostituirà 14 leggi diverse, la differenza si vede occhio nudo dal volume dei faldoni sul tavolo. Le associazioni dei consumatori hanno espresso dispiacere per non essere state coinvolte prima, nella fase di stesura del provvedimento. Sergio Emidiobini, assessore regionale al turismo e alle attività produttive. I tavoli che stiamo portando avanti in questi giorni proprio servono per raccogliere istanze, suggerimenti, consigli, quindi... E quello che abbiamo presentato è assolutamente una bozza avanzata, ma pur sempre una bozza, quindi suscettibile di miglioramenti. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina a Trieste, in strada nuova per Opicina, verso le 7, poco prima dell'ingresso delle Beatitudini, venendo dal centro. Il conducente di un'auto, per cause ancora in via di accertamento, stava salendo la strada e ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e abbattendo 4 plinti di cemento che delimitano il bordo stradale, facendoli cadere di sotto e fermandosi al centro della carreggiata. È stato ricoverato al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi. A intervenire i vigili del fuoco, un'ambulanza, 2 pattuglie della polizia locale, l'autosoccorso e FVG Strade per la pulizia del manto e la messa in sicurezza del bordo stradale. Il progetto della cabinovia tra Trieste e il Carso continua il suo tortuoso iter in Consiglio Comunale. Ieri pomeriggio l'Assemblea Civica ha discusso soltanto altre due delle centinaia di opposizioni presentate dai cittadini alla variante accesso nord, ovvero la delibera in materia urbanistica che dovrebbe dare il via all'opera. In totale ne sono state valutate in 11 sedute solamente 26. Ne restano da discutere ancora 122, un numero che, visti i ritmi tenuti finora, rischia di impegnare il Consiglio ancora a lungo, senza contare le interruzioni necessarie per discutere di altre delibere urgenti, come già avvenuto poche settimane fa per l'assestamento di bilancio. Sulla contestata opera incombe anche la sentenza del TAR sui nuovi ricorsi presentati dai comitati contrari, attesa per la prossima settimana. Al termine della seduta di ieri non è stata decisa la data della prossima seduta del Consiglio Comunale. A stabilirla sarà la conferenza dei capigruppo, che il presidente Panteca convocherà domani o giovedì. In ogni caso, ha spiegato Panteca, ha ragione dei tempi tecnici, la seduta molto probabilmente riprenderà dopo la pronuncia del Tribunale amministrativo. Restiamo a Trieste, dove questa mattina l'Ateneo Giuliano ha presentato lo stato dei lavori di restauro di Villa Sevastopulo, anche nota come Castelletto di Monte Valerio, lavori che si concluderanno entro la primavera del prossimo anno e che prevedono il risanamento conservativo dell'edificio, l'adeguamento funzionale e impiantistico e il recupero degli elementi decorativi di pregio. Inagibile dal 2010, Villa Sevastopulo era stata costruita nel 1862 dalla famiglia Valerio su progetto dell'architetto Vittori, in stile eclettico neogotico. Acquistata da Penelope Sevastopulo nel 1935, passò all'Università di Trieste nel 62, accogliendo gli istituti biologici delle facoltà di scienze e farmacia. Sentiamo il direttore dei lavori, Paco Ferrante. L'edificio si sviluppa su tre piani, abbiamo 400 metri quadrati per piano, 1200 metri quadrati complessivi che saranno fruibili all'utenza. Abbiamo un piano interrato destinato a servizi e un'ulteriore sala riunioni nella torretta di circa 40 metri quadrati. Termine lavori previsto il 30 aprile 2026. Il restauro si avvale del contributo beni culturali della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Il presidente Massimo Paniccia. La manutenzione è la civiltà dei popoli. Chi fa manutenzione pensa al futuro e quindi abbiamo deciso di permettere che si risolva il problema di aver bloccato i lavori, perché si porta questo castelletto straordinario a rientrare con i ragazzi, con gli studenti, con l'università e a vivere il futuro della nostra città. La villa è riccamente affrescata e costituisce un prezioso tassello del patrimonio storico-culturale triestino. Sentiamo il magnifico rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda. La destinazione d'uso sarà per le attività dei dipartimenti, in primis, ma non solo per il Dipartimento di Scienze della Vita, ma l'idea è proprio quella di dare a questo castelletto il ruolo anche di biglietto da visita per il nostro Ateneo in un posto straordinario. Durante i lavori sono stati recuperati tantissimi affreschi, dei particolari veramente pregevoli, per cui se da un lato questo ha reso più complesso e più costoso l'opera di recupero, dall'altro lato ne sottolinea ancora di più il valore e l'importanza del recupero. Trieste, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Sull'autostrada A4 Venezia-Trieste nel 2024 si è registrato il record di transiti con il passaggio di oltre 52 milioni di mezzi e prospettive di crescita di circa il 4% anche nell'anno in corso. Di questo traffico il 30% circa è rappresentato da veicoli commerciali, la percentuale più alta in tutta Italia. Anche di questo si è parlato nell'incontro tra i vertici di Autostrade Alto Adriatico e il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sergio Moschetti. È stata ribadita la necessità di completare la costruzione della terza corsia dell'A4, che oggi ha raggiunto uno sviluppo di 76 km, tenuto conto anche dell'adeguamento ad autostrada del raccordo Villesse-Gorizia. 76 km non di semplice allargamento autostradale, ma di costruzione vera e propria di un nuovo asse viario ottenuto sempre in esercizio. Il completamento dei 95 chilometri del progetto originario ha ora il suo momento cruciale e determinante, ha spiegato il presidente di Autostrade Alto Adriatico Monaco, nella costruzione dei 25 chilometri tra San Donà e Portogruaro, per il quale si attende in breve tempo da parte del commissario delegato per l'emergenza della A4 l'aggiudicazione del bando di gara più importante dal punto di vista finanziario mai sostenuto dalla società, con un quadro economico di 870 milioni di euro. Lo stesso finanziamento è già compreso nell'aggiornamento del piano economico della società del valore di quasi 2 miliardi di euro per i prossimi 30 anni. Ryanair ha celebrato oggi il raggiungimento della soglia dei 2 milioni di passeggeri sulla rotta Trieste-Londra-Stansted. Il viaggio di Ryanair all'aeroporto di Trieste e Ronchi dei Legionari è iniziato nel 2001. Quest'estate Ryanair opera un programma da record da e per Trieste con un incremento di capacità del 35%, 21 rotte totali, incluse 3 nuove, e entusiasmanti destinazioni, Lamezia, Praga e Stoccolma, oltre all'aumento delle frequenze su 9 rotte molto richieste come la stessa Londra-Stansted, ma anche Barcellona, Bari, Londra, Cagliari e Olbia, ha spiegato Fabrizio Francioni, capo delle comunicazioni di Ryanair Italia. A ciò, ha aggiunto, si aggiunge il posizionamento di un nuovo aeromobile basato per l'estate, un ulteriore investimento da 100 milioni di dollari, portando la flotta Ryanair basata a Trieste a 2 aeromobili. A Pordenone sono iniziate le demolizioni del complesso di edifici che affacciano su via Fratelli Bandiera e Viale Dante, tra cui la storica gelateria artigiana. Il progetto di ristrutturazione edilizia prevede la demolizione di 3 abitazioni e della struttura che ospitava l'attività commerciale che versavano da tempo in uno stato di fatiscenza. Al loro posto sarà realizzato un palazzo di 8 piani a uso residenziale. L'intervento rientra nella riqualificazione dell'area voluta dal comune, che prevede anche la costruzione già avviata con il primo lotto di lavori di un secondo condominio di edilizia residenziale di 10 piani, di cui i primi 2 adibiti a garage e cantine con 16 unità abitative, pronto alla fine del 2026. L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di concentrare le abitazioni in altezza piuttosto che consumare suolo nelle zone già provviste di servizi. Sempre nella stessa via è in progetto la realizzazione di un piccolo parco urbano. Cimolai, azienda leader nella progettazione e costruzione di strutture metalliche complesse, ha donato tecnologie mediche a supporto della diagnosi e dell'assistenza con l'obiettivo di rafforzare il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. L'azienda ha deciso di destinare 9 apparecchiature a 2 strutture della regione, la prima alla Fondazione Burlo Garofalo, che donerà alla clinica pediatrica dell'ospedale infantile 3 pulsossimetri pediatrici. La seconda iniziativa riguarda il reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Pordenone, con la donazione di un ecografo portatile. I pulsossimetri pediatrici sono uno strumento già impiegato in clinica pediatrica da alcuni anni, dimostrando resistenza ed attendibilità. Sono facilmente accettati dai bambini e dalle famiglie perché non ingombranti e impiegabili anche nel trasporto con durata prolungata della batteria ricaricabile, ha detto il direttore della clinica pediatrica del Burlo, Egidio Barbi. Questa tecnologia consente all'anestesista di esplorare in tempo reale aree anatomiche prima difficilmente accessibili, orientando con maggiore precisione le scelte terapeutiche e contribuendo concretamente a migliorare la qualità delle cure, ha detto il direttore del reparto dell'ospedale di Pordenone, Tommaso Pellis. Siamo allo sport, ciclismo, secondo posto ieri per Jonathan Milan nella terza tappa del Tour de France da Valenciennes a Dunkerque di 178 km. Il velocista di Buia è stato battuto per pochi centimetri dal campione europeo, il belga Tim Merlier. Milan si consola con la conquista della maglia verde, riservata al primo della classifica punti, al termine di una tappa che ha visto il ritiro di Jasper Philipsen, vincitore della prima tappa e titolare della maglia verde prima di Milan a causa di una caduta che gli ha provocato la frattura della clavicola. Ma sentiamo la voce di Jonathan Milan al termine della tappa di ieri. I cannot be super happy for a second place. I mean, it's always a big result. Non posso essere molto felice per un secondo posto, è sicuramente un grande risultato, sono anche contento di aver preso la maglia verde, ma il finale di tappa è stato un po' difficile, caotico. Ho cercato di fare il mio meglio per lo sprint, forse potevo aspettare un po' di più, ma dopo che la tappa è finita si pensa sempre a cosa poteva andare meglio. Alla fine è andata come è andata e adesso dobbiamo imparare da questo finale. Sono molto contento della forma che ho raggiunto e adesso devo continuare a lottare. La maglia verde era un obiettivo che avevo fin dall'inizio e adesso voglio continuare a portarla. Mi dispiace davvero per Philipsen e spero che possa guarire presto. Da parte mia, appunto, continuerò a lottare per tenermi questa maglia. Yeah, I will try to keep fighting for this jersey. Gli spettacoli, il concerto di Marco Masini, unica data in Friuli Venezia Giulia del tour Ci vorrebbe ancora al mare, originariamente previsto ieri sera al castello di Udine, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato la città di Udine e l'area del concerto durante la serata di ieri, appunto. L'evento verrà recuperato nella nuova data di venerdì 11 luglio, sempre al castello di Udine e sempre alle 21. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. In occasione del concerto, biglietterie aperte dalle 19:30 in Piazza Libertà e porte aperte al pubblico dalle 20, con ingresso all'area del concerto possibile solo da Piazza Libertà. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Mauro Cumin e Walter Vidonis. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione. Prossimo giornale radio in onda, come di consueto, alle 15. Vi auguriamo un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.